Sura 107. Al-Ma'un. L'utensile. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Non vedi colui che taccia di menzogna il giudizio? È quello stesso che scaccia l'orfano e non esorta a sfamare il povero. Guai a quelli che fanno l'orazione e sono incuranti delle loro orazioni, che sono pieni di ostentazione e rifiutano di dare ciò che è utile.